cose che non so, e a pensarci bene è una vita che ti do. Tutta la fiducia e magari qualcosa in più che potrebbe avere conseguenze a meno che tu. Metta nel mio corpo la saggezza che mi porterà più in là di quello che non posso usare, perché la paura c'è. Sento che la musica cambierà e che gira i dischi di sicuro ci salverà. Perché lui è un mago e tiene il ritmo più che mai. Senza scuse ti ricordo.